Now listen to this short exchange. Siete in quattro, vero? Sì, siamo in quattro. To say how many people there are, you say in plus the number. In quattro. Imagine you go with some other people to a restaurant and the waiter wants to confirm how many he thinks you are. You answer, confirming the number he mentions. Then you repeat the correct answer. Ascolti l'esempio. Siete in sei, vero? Sì, siamo in sei. Pronti? Cominciamo. Siete in otto, vero? Sì, siamo in otto. Siete in due, vero? Sì, siamo in due. Siete in dieci, vero? Sì, siamo in dieci. Siete in cinque, vero? Sì, siamo in cinque. Siete in tre, vero? Sì, siamo in tre.